in primo piano. D'altronde il dramma del terremoto è ancora il titolo principale dei quotidiani come il Corriere della Sera. Haiti è sfinita, atterrano i parà USA e Berlusconi manca il coordinamento in via nell'isola Bertolaso. Haiti soccorsi lanciati dal cielo per La Stampa. Haiti soccorsi sotto accusa per Repubblica, che però punta anche sulla politica. Oggi il sì al processo breve e il PD si intrincea al Senato. Per il Sole 24 Ore, le parole di Tremonti sulla ripresa: in Italia crescita all'1%, bond da 2,5 miliardi di dollari, prove di dialogo sul fisco. Haiti, il caos dei soccorsi per il Messaggero. Haiti con gli occhi al cielo per Avvenire. Questo è il fronte dei soccorsi, insomma c'è la polemica, c'è anche per l'intervento militare vero e proprio americano, tanto che Franco Venturini nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera scrive così: la tragedia di Haiti può diventare una buccia di banana per lo strapotere benevolo, generoso in questo caso, dell'America di Obama. Il presidente ha fatto quello che era inevitabile che facesse, per la mole degli aiuti stanziati, per il numero di soldati, mezzi inviati. Ma benché l'ONU preveda l'invio di 3.500 uomini, che senso ha mandare un piccolo esercito in un luogo da sempre turbolento, dove la sicurezza è sempre stata un concetto astratto, se quei parà e quei marines non devono mantenere l'ordine e proteggere la distribuzione degli aiuti? Il problema è questo, allora, scrive Venturini. L'iniziativa militar-umanitaria americana, dopo la prima fase emergenziale, quale volto vorrà darsi? Quello di un mandato etico-imperiale? Quello di un intervento legittimato dall'ONU? La verità è che in ogni caso Obama resterà prigioniero della sua foga iniziale. Insomma, questo è il concetto che trovate più espresso sui giornali: sbarcano i militari, tanto che il Manifesto mette in prima pagina proprio una grande foto di uno sbarco di Marines col titolo "Non è Kabul", sembra quasi un teatro di guerra. Insomma, fa un po' impressione vedere effettivamente lo sbarco di tantissimi militari. E poi il problema dei soccorsi, tanto che le razioni alimentari vengono gettate dall'alto, vengono paracadutate, proprio perché è ancora difficile arrivare in alcune zone duramente colpite. Quello dei bambini è uno dei drammi nel dramma haitiano. Le ONG, adozioni premature, prima gli aiuti sul campo. Lo leggo dal Sole 24 Ore. Ieri si è riunita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stati stanziati dei soldi, 350.000 euro a Save the Children, 350.000 alla Caritas, 300.000 all'UNICEF. Sul fronte delle adozioni internazionali però bisognerà attendere, ha fatto sapere il sottosegretario Giovanardi, che sarà anche nostro ospite, vi preannuncio alle 8.30, bisognerà attendere che il governo haitiano dichiari lo stato di reale abbandono e accertare l'idoneità delle coppie all'adozione. Tra l'altro salto su questo tema ad Avvenire, dove c'è una denuncia molto forte. Arriva via mail proprio al quotidiano e arriva da Matteo Perrone, che è il coordinatore dell'urgenza per l'UNICEF a Port-au-Prince, dunque ad Haiti, che scrive: attenzione, perché vedo molti bambini piccoli che si imbarcano in voli che si recano un po' ovunque nel mondo. Ufficialmente i bambini vengono fatti uscire dal paese con documenti regolari, ma è molto strano che non siano accompagnati dalle loro nuove famiglie. Il sistema è avvolto nella nebbia e dice si sta venendo a creare un vero e proprio mercato di minori, il tutto senza rispettare la convenzione dell'AIA e dei bambini. Un problema molto serio, infatti. Anche La Stampa lo mette a pagina 3 come uno dei temi dunque dominanti. Corsa all'adozione, ma non per gli italiani. Le associazioni dicono: non abbiamo convenzioni con Haiti, perché tra l'altro per il momento in Italia c'è un'unica associazione che è deputata a portare avanti le adozioni con Haiti. Sarà anche in questo caso il nostro ospite la presidente dell'associazione. E sostanzialmente che succede dunque? Che anche burocraticamente è tutto complicato. In 53, scrive Flavia Amabile sulla Stampa, sono sbarcati ieri negli Stati Uniti. Sono i primi orfani haitiani che iniziano ad abbandonare l'isola, dove hanno perso tutto per essere accolti nelle nuove famiglie. In Francia, dove i legami con la ex colonia sono ancora forti, arrivano altri bimbi. In base alla stima ci sarebbero, per l'agenzia francese, 1.500 bambini che attendono il via libera per lasciare il paese e volare in Francia. Anche in Italia sono tanti, ma il sottosegretario Giovanardi dice non creiamo equivoci. Dunque questo è il tema di cui ci occuperemo alle 8.30. Vi vogliamo chiedere se secondo voi sia giusto adottare o no, portandoli in Italia, i bambini rimasti orfani di Haiti. Tra l'altro sul tema aiuti, Berlusconi che dice mando Bertolaso per coordinare, oggi Repubblica fa le tre pagine centrali del giornale, è Alberto Statera che firma un lungo articolo dal titolo Bertolaso S.P.A. Come cambia la protezione civile con un decreto legge che la trasforma in società per azioni. Libertà di spesa, bilanci secretati, poteri illimitati. Non ci sono cifre ufficiali, ma in meno di 9 anni sarebbero già stati stanziati 10 miliardi con il PD che accusa è una picconata allo Stato, così un controllato diventa controllore. E la definisce Statera una macchina di potere travolgente che controllerà flussi di miliardi di euro. E racconta anche l'irresistibile ascesa del sottosegretario nella classifica dei ministri. C'è anche un'intervista di Alberto Mattone a Bertolaso che dice con i nuovi poteri, con la trasformazione della protezione civile in una sorta di SPA a totale capitale pubblico, però batteremo la burocrazia appunto con questi nuovi poteri. Con Bertolaso che dice sulle pressioni politiche, se le avessi ricevute un minuto dopo l'avrebbe saputo il magistrato. E allora, questo è per il tema Haiti che voglio lasciare, ma lo riaffronteremo poi alle 8.30 occupandoci del fronte appunto molto molto interessante delle adozioni internazionali. La politica in Italia si anima oggi al giorno della votazione al Senato del primo sì, dunque del processo breve. Tanto che questa è l'apertura di Repubblica che con Liana Milella, sempre molto attenta nel raccontare i retroscena legati alla politica e alla giustizia, dà questo spunto di novità se fosse confermato, il vento dell'incostituzionalità sull'euforia del PDL. Che cosa scrive Liana Milella? Sono gasati, convinti di farcela, incuranti delle avvisaglie e degli ostacoli, sicuri di loro stessi. Berlusconi dice Napolitano, tranquilli, so per certo che il processo breve me lo firma. Ma eccolo qui in retroscena, dai Finiani e dal Quirinale spira già il forte vento della incostituzionalità, volutamente inascoltato nel giorno del successo al Senato, messo accuratamente da parte. Insomma, secondo Liana Milella ci sarà il sì ovviamente al processo breve, ma la brutta sorpresa è già dietro l'angolo, ben materializzata, potente nei suoi effetti. Il processo breve nella nuova versione decisa ad Arcore non piace ai Finiani, non piace al Quirinale, che dice per ora come sempre bocche cucite, ma i tecnici stanno studiando. Ma sarebbero pronti a sollevare qualche eccezione di costituzionalità sulla legge. I Finiani ne fanno una questione politica e tecnica, avevano infatti esaminato un disegno di legge differente su cui avevano già espresso dei dubbi, poi tutto è cambiato, mentre il Quirinale starebbe puntando su questa l'attenzione su questa norma transitoria, e cioè fulminare i processi per reati commessi prima del maggio 2006 già coperti dall'indulto equivale di fatto a un'amnistia che però ha bisogno della votazione in Parlamento dei 2/3, mentre qui non sarà votato in Parlamento dei 2/3. Su questo punto, secondo Repubblica, secondo Liana Milella, si rischia la incostituzionalità del procedimento. Vabbè, ma vedremo oggi intanto se ci sarà il giorno del sì al Senato con il PD che promette le barricate. L'altro fronte è quello che è riapparso Tartaglia, quello che scagliò il Duomo in faccia al Premier. Oddio, è riapparso. Diciamo, si hanno notizie su di lui. Tartaglia dalla cella in ospedale, leggo dal Corriere della Sera, rischi di autolesionismo. Mangiava sempre meno, dormiva sempre di più. Le ultime frasi sono pare queste: nel mondo si consuma troppa energia, io devo contribuire a risparmiarla. Chiuso in se stesso, anche se completamente isolato dal mondo esterno, il 42enne che il 13 dicembre scagliò un souvenir del Duomo contro Silvio Berlusconi ferendolo al volto dava segni di preoccupante squilibrio mentale. Così il giudice per le indagini preliminari l'ha fatto trasferire nel reparto psichiatrico del San Carlo di Milano, l'ospedale San Carlo, con il padre, tra l'altro, che dice: quello che ho sempre chiesto, e dunque bene così. E tra l'altro, lo ha anticipato ieri il Fatto e oggi insomma viene confermato, il procuratore aggiunto Spataro, che è titolare del fascicolo dell'inchiesta, ha chiesto che cosa? Una sorta di visita fiscale, cioè una consulenza medico-legale su Silvio Berlusconi per stabilire il grado delle lesioni, se siano permanenti o no, i tempi di guarigione, anche perché la prognosi iniziale del San Raffaele parlava di 25 giorni, poi è stata estesa a 90. E Berlusconi sarà visitato dal professor Carlo Goi dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, da uno specialista maxillofacciale. E dunque questa è anche un po', se si vuole, la curiosità, tanto che addirittura per Libero è da farci la prima pagina, non il titolo d'apertura, ma indagano anche sui cerotti di Silvio per verificare quanto ha colpito duro Tartaglia, un articolo di Andrea Scaglia. Eccola qui, una visita medico-legale per Berlusconi disposta dalla Procura di Milano nella persona del procuratore Armando Spataro per capire l'entità precisa dei danni subiti nell'aggressione dello scorso 13 dicembre. Così scrive Libero. L'altro tema di politica vede protagonista Nichi Vendola, il presidente della Regione Puglia, che vuole correre per la ricandidatura e che così è al centro di un giallo, ieri dato per indagato. Poi il procuratore capo di Bari è intervenuto facendo poca chiarezza, perché ha detto: nei confronti del presidente della Giunta non vi sono iscrizioni suscettibili di comunicazione, cioè, come dire, non dico se è indagato. In realtà, siccome l'iscrizione è un atto segreto, potrebbe essere che è iscritto nel registro degli indagati, ma non è suscettibile di comunicazione, quindi non ve lo devo dire. Insomma, non è che ha chiarito tantissimo. Il tema centrale è questo concorso che non ha visto vincere Giancarlo Logroscino, tra l'altro cervello in fuga, è andato ad Harvard, uno dei massimi esperti al mondo nel suo campo, uno dei luminari della scienza, tanto che in un'intervista a Guido Ruotolo sulla Stampa parla Nichi Vendola e dice, vabbè, a parte che dice: mi vogliono impallinare, sono da sei mesi al centro di strumentalizzazioni, la Puglia è un laboratorio di riformismo radicale, ed eccolo qui che dice: ma lei insomma è indagato, dovrebbe farsi da parte in quanto indagato. Mi volete indagare per una telefonata nella quale mi schiero per il ritorno in Puglia di un grande cervello emigrato negli Stati Uniti, il professor Giancarlo Logroscino? Ripeto, 5 anni di governo di Puglia sono un'anomalia che vogliono cancellare, vogliono, non si capisce a chi si riferisce, forse ad D'Alema, di cui dice: mi dava per sconfitto anche nel 2005, le cose andarono diversamente. Sta di fatto che Vendola si difende così. Ancora un attimo su Vendola, perché il professor Giancarlo Logroscino, quello al centro della presunta nomina pilotata, non si capisce, comunque delle lamentele di Vendola, parla al Messaggero, peraltro dice: scusi, è il 16° o 18° giornalista che mi chiama, non ho niente da dire comunque. Ma le chiede: scusi, ma cosa prova in questi momenti? Che vuole che dica? Questa è l'Italia. Ma almeno lei è un cervello in fuga. Guardi, il problema è che io ho un cattivo approccio con la stampa italiana. Ero abituata a quella americana, a quella scientifica. Qui è tutto così difficile, complicato, perché se compri il Sun sai cosa ti aspetta. In Italia c'è un po' di Sun ovunque leggi. Insomma, il tabloid scandalistico. Ma scusi, la fuga dei cervelli? In Italia per i cervelli non c'è posto. Così parlò il professor Logroscino. In primo piano. Abbandoniamo la politica, come detto l'economia, il Sole 24 Ore apre con l'Italia, la crescita all'1%, le parole di Tremonti che sono poi riportate da un articolo di Dino Pesole a pagina 3. Nell'aggiornamento del programma di stabilità che il governo presenterà a fine mese, la stima per la crescita sarà ritoccata a rialzo dallo 0,7% all'1%, o meglio nei dintorni dell'1%, ha detto Tremonti, che ha aggiunto: dobbiamo indicare ora una cifra che varrà per l'intero anno, ma lo faremo, ma come sapete non sono un fanatico dei decimali e vi è noto come la pensi sugli indovini. utilizza ancora questa parola il ministro dell'economia. Tra l'altro c'è a fianco l'articolo di Carmine Fotina su quelli che sono il decreto allo studio per la politica industriale, vale a dire per il rilancio dei consumi, del manifatturiero, per anche gli incentivi, non solo bonus per auto, elettrodomestici ecologici e un mobile per cucina, un intervento su cui lavora lo sviluppo economico di 1,2 miliardi di euro. Tra l'altro voglio andare ad alcune segnalazioni interessanti che trovate sui giornali. La prima, sempre dal Sole 24 Ore: le donne americane hanno preso la rincorsa. Se le mogli guadagnano ormai più dei mariti. Una svolta negli Stati Uniti, dove c'è questo termine, no? Il breadwinner, cioè quello che porta a casa la pagnotta, possiamo tradurlo così. In Italia si sta connotando sempre più al femminile. Una ricerca dello studio Pew Research Center negli Stati Uniti dice che una donna su 5 guadagna più del proprio partner, cioè il 22% delle donne guadagnano più degli uomini. Nel 1970 era solo il 4%, dunque in 40 anni c'è stato questa forbice di aumento. Che succede in Italia? Si legge nell'articolo all'interno. Uno studio dell'Università Bocconi ha segnalato una differenza salariale tra uomini e donne del 22,8%. Questi dunque dati interessanti da analizzare oggi al centro del Sole 24 Ore. Che mette anche in primo piano l'inchiesta sulla bufala. Il ministro dell'agricoltura Luca Zaia, a fronte di alcune analisi fatte dai NAS, immagino, che hanno scoperto che nella bufala campana alcuni mettevano del latte bovino di diversa provenienza, dunque non di bufala, addirittura latte annacquato, ha usato questa espressione Luca Zaia, è stato commissariato dopo aver mandato gli ispettori al consorzio di tutela della mozzarella di bufala, è stata commissariata la gestione. Inchiesta sulla bufala DOP, così si legge a pagina 24 del Sole 24 Ore, i NAS avrebbero rilevato prodotti adulterati presso l'azienda, tra l'altro del presidente Chianese. Voi pensavate che ieri avevamo chiuso la vicenda di Accia, e invece mi spiace, ma ci dobbiamo tornare, perché l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II oggi riparla con Repubblica, che non credo proprio che abbia sborsato 5 milioni di dollari per queste poche parole che Marco Ansaldo è riuscito a strappare a Accia al primo giorno di libertà. Ali Accia ha detto, dopo aver dato numero N versioni sull'attentato al Papa, ora dice: dirò tutta la verità. Una cosa già sentita, ma sarà l'ultima parola, questa volta sarà l'ultima parola, e lo farò in una conferenza stampa. E infatti Ansaldo gli chiede: lei ne ha già dette tante, ma è vero, ma ora dirò la parola definitiva, l'ultima. E su Emanuela Orlandi dice: è una storia il suo rapimento inconfessabile, dietro ci sono segreti, il coinvolgimento di potenze internazionali. Vabbè, che sia inconfessabile anche questo l'avevamo capito. Infine, non entrerò in politica, per carità, vorrei fondare un movimento religioso, e poi la conclusione classica: io penso di essere Gesù Cristo reincarnato. Legga questo passo di Giovanni: molti di loro dicevano Gesù Cristo è un demonio ed è pazzo, perché lo ascoltate? Ecco, 2000 anni dopo la stessa storia si ripete con me. Finalmente abbiamo chiarito millenni di storia con Ali Accia. Voglio andare alle segnalazioni finali. Beh, questa è interessante, dal Corriere della Sera: metà studenti da bocciare in italiano, forse non solo gli studenti. Alla fine del percorso scolastico, dopo 13 anni di lezioni ed esercitazioni, la prova scritta di italiano rappresenta un problema per metà degli studenti, perché errori di ortografia, uso inappropriato della punteggiatura, periodi senza senso, lo ha rilevato l'Invalsi, l'Istituto per la Valutazione, insieme all'Accademia della Crusca. Gli studenti, da un'analisi dei temi, non sono in possesso degli strumenti essenziali, così che futuro possono avere? La scuola si deve interrogare. Insomma, l'ennesima conferma che c'è qualcosa che manca nella scuola, nel sapere insegnare anche gli strumenti base, come quello dell'ortografia. Le ultime due segnalazioni al referendum sull'IKEA, più votanti che per le europee. È successo in Germania, dove nella città di Altona, o meglio nel quartiere di Altona, ad Amburgo, c'è un referendum che per chiedere ai cittadini: volete l'IKEA oppure no? Oppure la volete qui o la volete un po' spostare? Ebbene, sono andati a votare il 44% dei cittadini, un'affluenza superiore rispetto a quella registrata alle europee, che fu del 40%. Anche questo è un dato su cui riflettere, non è invece una notizia su cui riflettere, ma così la cito. Ieri Chiambretti ha fatto un grande scoop. Aveva una delle amanti, e sono tante, è vero, ma una era da lui, di Tiger Woods. Ma che malato! Tiger Woods è solo un porco! L'ex modella Cori Rist al Chiambretti Night racconta la sua relazione proibita col re del golf, però dice a letto merita un bel 9. E bravo Tiger Woods, lo trovate raccontato dal giornale a pagina 22, più che malato di sesso era un gran porco. Questa è la sentenza di una delle tante amanti dell'ex campione di golf. Ci fermiamo, dovete votare su radio24.it nella sezione bianco-nero. Sulle adozioni internazionali, pensate sia giusto portare gli orfani di Haiti in Italia portandoli via dal loro paese? Votateli, ne parleremo alle 8:30, ora GR24.